America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. In realtà siamo fortunati che posso darvi il buongiorno, perché oggi, secondo i Maya, 21 dicembre 2012, dovrebbe esserci la fine del mondo. E quindi, come dire, dovremmo essere vagamente preoccupati. Se ancora mi state sentendo ai microfoni, vuol dire che per ora va tutto bene, ma insomma la giornata è lunga e le cose che nel mondo non funzionano in effetti sono molte, sia dal punto di vista climatico che da quello politico. Però facendovi questa trasmissione da New York, questa città che esorcizza tutto, devo dirvi che io ieri sera sono stato a un party dedicato proprio alla fine del mondo dei Maya. E lì sì che l'hanno esorcizzata questa paura della fine del mondo, perché c'erano anche degli esperti i quali hanno ricostruito un po' le dinamiche dei Maya. Questo party è stato organizzato da uno che ha fatto un dottorato di ricerca proprio sui Maya, c'erano altri esperti e quindi ci hanno spiegato che in realtà il calendario Maya sì finisce in effetti il 21 dicembre del 2012, però finisce il tredicesimo periodo Baktun, e normalmente poi se ne apre un altro, e questo periodo Baktun è di 400 anni, quindi si chiude un ciclo ma poi se ne deve aprire un altro. La confusione sulla fine del mondo nasce da un geroglifico cancellato in una rovina Maya che qualcuno diceva, non essendoci il punto di continuità con il rinnovamento, in realtà qui ci sarà la fine del mondo. Sbagliato, ci hanno detto ieri sera, in realtà questo nuovo periodo che si apre davanti a noi potrebbe essere un periodo di amore, di pace, di illuminismo, di rinascimento. E naturalmente, soprattutto in giornate un po' tetre, un po' scure, se pensiamo ai funerali che continuano ad esserci a Newtown, dei bambini uccisi nella strage compiuta dal folle, da Adam Lanza, insomma abbiamo bisogno di un minimo di speranza e di rinascimento. E dunque in questo party un po' anomalo per party natalizio si è parlato proprio di questo. Perché vi racconto di questo party? Non soltanto perché in qualche modo questo gruppo a New York ha esorcizzato la fine del mondo, ha fatto un party e ha chiuso la partita semplificando in questo modo, ma perché a New York durante il periodo natalizio ci sono una gran quantità di party. Sono dei party dove si ritrovano amici, familiari, sono dei party allargati dove ci sono magari 80, 90, 100, 200, 300 persone. Mi è capitato di andare a una gran quantità di party diversi nel corso della settimana, devo dire sono tutti molto gradevoli, si rivedono amici, in genere sono fra le 6 e le 9 di sera, non sono delle cene formali, sono molto meno formali e molto più allargati di quello che è poi il vero giorno di Natale, il 25, ed è un'esperienza molto gradevole. Vorrei raccontarvi un party natalizio molto particolare, il party natalizio organizzato dai colleghi, dai giornalisti, fra i quali mi annovero, che coprono le Nazioni Unite. And our master of ceremony for the evening is the historic Richard Roth, and is coming here right now. Thank you and happy holiday. La serata comincia con il benvenuto da parte di un amico, tra l'altro, Giampaolo Pioli, che è un italiano, che è il presidente dell'Associazione Giornalisti delle Nazioni Unite, che presenta il Master of Ceremonies della serata, Richard Roth, il collega della CNN. Perché vi parlo di questa cosa delle Nazioni Unite? Perché in effetti un po' di episodi, così diciamo alla fine del mondo, ci sono stati, al di là degli aspetti tragici di cui abbiamo parlato. Però ieri, per esempio, il New York Stock Exchange ha finito di esistere come unità indipendente perché è stato venduto al gruppo ICE, un gruppo che opera sui mercati delle commodities, delle materie prime, una vendita da 8 miliardi di dollari e devo dire una svolta storica per Wall Street, perché questo passaggio di mano ovviamente segna comunque un cambiamento importante per la città. Vi rassicuro, il New York Stock Exchange ci sarà sempre, il balconcino ci sarà sempre, diciamo nello spirito Maya più ottimista parliamo più di rigenerazione che di fine del mondo. E visti che ci sono mille problemi, essere alle Nazioni Unite, essere col segretario generale dell'ONU, con Susan Rice, ambasciatore molto chiacchierato degli Stati Uniti al Palazzo di Vetro, e con un premiato speciale Arnold Schwarzenegger, devo dire è stato rassicurante, anche perché invece di parlare di cose serie, pesanti e molto spesso noiose, per una volta si è scherzato. Maggiore, so-called Kedmeser, Iran, Gontibag, Bethwey, Ashoni, Per primo ha scherzato Richard Roth su se stesso. Vi ho fatto ascoltare uno spezzone di un lungo filmato in cui si fa una parodia del film, l'ultimo film di 007, e al posto dei protagonisti ci sono protagonisti delle Nazioni Unite. Avete sentito la voce dell'ambasciatore russo, per esempio, a un certo punto. La musica resta la stessa, alcuni passaggi sono gli stessi, però sembra che alle Nazioni Unite ci sia un po' questo centro, questo passaggio di intrighi, di spie, di assassini, e quindi si crea un pathos che naturalmente ci fa un po' sorridere, perché in realtà, ve lo garantisco, alle Nazioni Unite soprattutto ci sono montagne di carte, tonnellate di documenti, spesso purtroppo molto noiosi. How close are you to enjoying this evening? How close? E chi è uno dei primi grandi personaggi di questa serata? Una serata che tra l'altro è anche dedicata a dei premi a giornalisti delle Nazioni Unite che abbiano fatto degli scoop particolari, che si siano distinti per la copertura di eventi importanti. Ecco, la prima apparizione importante è stata quella, ve lo anticipavo prima, di Susan Rice. Susan Rice, lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo, è stata nell'occhio del ciclone sia durante le elezioni per la crisi di Bengasi, perché aveva smentito che ci fosse un attacco preorganizzato da un'organizzazione simile a quella di Al-Qaeda, sia perché è stata chiacchierata come possibile scelta da parte di Barack Obama per la successione a Hillary Clinton come segretario di Stato. I repubblicani le hanno scatenato una guerra violentissima contro, ed ecco, devo dire, di nuovo rassicurante nel momento in cui, possiamo dirlo, per la Rice c'è stata la fine del mondo, perché ha dovuto rinunciare appena pochi giorni fa alla poltrona di segretario di Stato, eccola lì al microfono a scherzare anche su se stessa. There's nowhere in the world I'd rather be tonight. Avete sentito la Rice? I wouldn't want to be anywhere else in the world but here. E sapete cosa appariva dietro di lei nel momento in cui diceva questa frase? In questo momento non vorrei essere in nessun'altra parte del mondo. Una foto enorme del Dipartimento di Stato. La Rice naturalmente è stata al gioco, rideva e scherzava, e poi ha fatto quest'altra battuta. We had a bit of a crisis earlier tonight when they told me I wasn't allowed to be any funnier than the Secretary General, which is, with all due respect, Mr. Secretary General, a bit of a challenge. Ecco, la Rice di nuovo che scherza, dice, beh, insomma, i miei mi hanno detto, attenzione, non devi essere più spiritosa del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Dice, devo dire che questa è davvero un'impresa molto difficile. E Ban Ki-moon, notoriamente serioso, imperturbabile, insomma, uno che è difficilissimo strappargli una battuta, e quando la fa, molto spesso, non fa ridere, guardava anche lui sorridendo. Insomma, l'atmosfera era davvero gradevole e la Rice è andata avanti nel prendersi in giro. A un certo punto dice, ma insomma, tutti dicono che io sono poco diplomatica, che sono brusca, che è giusto che io non vada al Dipartimento di Stato perché queste mie caratteristiche me lo impedirebbero. Bene, chi ha il coraggio di dirmelo in faccia questo, che venga, perché lo prenderò a schiaffoni e a calci nel sedere. My advisors are ridiculous. They told me to make a viral video. I'm not that important person. Il momento clou, o meglio quasi clou, è quello in cui arriva Ban Ki-moon. Ecco che Ban Ki-moon anche lui si deve prendere in giro. E allora cosa fa? Racconta questa storia. Dice che c'è stato un momento di crisi fra i suoi più vicini consiglieri, convocano una riunione e dicono c'è un momento difficilissimo, perché dicono che improvvisamente il coreano più famoso del mondo non è più il segretario generale, ma è Psy, il cantante coreano famoso per questo stile gnam gnam. E allora che succede? Bisogna correre ai ripari, si decide di fare un video. E vediamo questo video, la decisione che il segretario generale deve apparire come un uomo di straordinaria azione. But first I had to get in shape. Ecco, lo sentite il segretario generale che dice, beh, devo avere un atteggiamento da uomo forte, da uomo duro, e devo mettermi dunque in forma. E quindi parte questo calvario in cui si vede il segretario generale che corre per fare degli esercizi e fa le scale del palazzo di vetro, trova un agente che gli fa fare delle flessioni e così via, così via, fino a che a un certo punto, stanco, distrutto, si mette in un angolo, legge un libro da bambini perché sta preparando una lettura per una delle sue nipotine, uno dei momenti, dice, che adora di più. Una guardia attraverso i video di controllo interni lo vede, registra questo video di Ban Ki-moon che da solo si guarda un libro delle fiabe da bambino, e lo mette su YouTube. Altra crisi enorme, perché invece di apparire questo video dove Ban Ki-moon doveva essere l'uomo più forte del mondo, appare il libro dove è seduto e sfoglia un libro di favole da bambini. Che succede però? Colpo di scena che questo video va viral, fa miliardi di ascolti, Ban Ki-moon diventa popolarissimo e quindi missione compiuta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, siamo sempre più vicini al Natale, continuo con la serie di canzoni natalizie e visto che sembra che abbiamo passato la profezia Maya, questa festa alle Nazioni Unite è stata bellissima, ci dà speranza per il 2013, vi propongo It's the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the season of all. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!